cotto. Come? Ho già detto, gira o che cotto. Appunto, cosa puoi giudicare io? Lo giro sì, a un certo punto. Cosa gli posso dire? Lui è pirata. Sei you? Luca Del Mo. Ciao Marco. Beh, per quello schermo com'era finita? Ma per quello schermo, ancora dietro, non c'ho soldi. Ma ho chiesto a Luca che lui è iscritto lì, vai diamo un po', me lo ordino e tu me lo ordini a lui, non c'è problema, tanto lo devo comprare. Ok, ciao a tutti, dai, ciao, sto chiudendo. Come mai Luca? Marco. Come, Pompo? Come mai stai chiudendo? Così fretta? Ehi, catta, ce la fa la... Stai studiando cosa stai facendo? Devo andare al computer, devo fare... Porco pomponio! Fare... vabbè mio, poco fare in garage, da una cosa all'altra. Ci ho buttato un bel po' di roba, Marco, solo ci ho buttato la verità, da una cosa all'altra. Quindi, ci ho scritto il computer, se Luca si viene, se ritira adesso, se ne porta adesso, se no si è dato un can culo. Lui e il computer. Sì, e ti fa bene. Quale schede di computer? Quale schede hai? Indirizzatore fissa, se vieni te le prendi, se no ti ho tolto il culo. Il discorso è quello. Adesso però mi, non domani mattina, te le prendi adesso. Guardi quello che c'è e te lo porti via. C'è anche un... Adesso mi ricordo se c'è un monitor, adesso non me lo ricordo la verità. Vieni, te lo guardi e te lo porti via. Sto facendo pulizia in garage, mi forse non hai capito niente. Mi serve il garage libero, quindi affrettati, se no domani mattina prendo e ti dà tutta la mondezza. Sono a piedi, non posso venire. Peggio batte allora. Io ti dà tutto mangiare. E io? C'è anche un televisore di 36 pollici, c'è, della Trifunken. Ci ho buttato anche quella poco fa, addirittura. Quindi figurati tu, quindi prendetelo veloce. Perché ci voglio 34 ore da metterlo a posto, come scheda. No, Natalì, cosa stavi dicendo prima, non ho capito. C'ho un po' di dischi per portatile. Dischi rigidi, quelli piccolini. E un po' di RAM. Scusa, ma lei che attacco hanno? E se funzionano? Io te, a me me li hanno dati, poi se funzionano li devi provare su un portatile, non lo so. State, state. Ehi, ma che cazzo? Stavi mangiando un cornetto di ghiaccio invece. Ehi, mettete a passare il microfono, fare un karaoke. Ma di mammo? Ehi, amplificato. Con questo vinci subito, con questo vinci la gara. Vabbè. Sì, mi mangiate un cacco, una donna. Cacco, un cablattamona? Un cacco da bagno. Ehi, ciucacciù. Pomponio Luca. Pomponio. Dimmi tutto. Ma ne vuoi il vino? No, assolutamente non me ne sbatte nulla a me. L'ho avuto e ce l'ho gratis. Grazie a Dio. Oramai ce l'ho gratis. Anche io te lo do gratis, devo già metta. Mica te lo posso pagare. C'ho vino e birra, spumante. Vedi che piglia la roba e... Cosa ti dica io? Cosa vuoi dire? A un certo punto. Vieni e ti piglia la roba che ho io, nel garage, cosa me ne frega a me? Oh, mica che se ti offro la bene mi devi la roba dal garage. A un certo punto non conviene più. Ah, perché... va a far culo, vai che non... Okay, a un certo punto non ti conviene più, non diceva quello. E io? Oh, tu hai detto che vieni a prenderti la roba dal garage, ma mica io ti devo... Cioè, ti sto prendendo la bene, ma mica voglio la roba dal garage. La roba dal garage è gratis, mica è a pagamento a me, non hai capito niente, te la porti via, quello. Non ti sto chiedendo soldi lì. Luca, già lo sai, quindi se ti serve qualcosa, vieni in garage, vieni e te la prendi. come ho fatto l'altra volta, basta. Ci siamo schede, quello che è, e te le porti via, me ne ha fatto un da me. A un certo punto mi conviene. No, non lo so, dipende da te, cosa ne so io, scusa. Vabbè, dai, sono un quarto, va, verso le... Non ce la faccio per un po', devo andare a prendere due amici anche. Dobbiamo uscire. Boh. Che schede sono, scusa? Di che anno sono? Come sono? Boh, non lo so come anche io. Asco, fa come vuoi. Se vuoi venire bene, sono stato in quel posto a certo punto. Cosa vuoi dire io? Io a me di quei computer vecchi di 100 anni fa, no, ma, a parte non li vuole neanche il professor Marco regalo, e quindi te lo sto dicendo io per quel motivo. Quindi se vuoi quella scheda ci sono, c'è la scheda che in pratica puoi agganciare il TMR, in pratica l'attacco satellitare per la parabola, c'ha due ingressi e poi ce n'è uno un ingresso solo, quindi basta, tutto lì. Ci sono altre schede, queste io non sono in cioè io a me puoi dirmi di roba di baracchino, non roba di schede di computer, quindi quello te lanci tu, se c'è solo da buttare te le butti, se no io c'ho roba giù che è in garage che non mi serve, te la scegli tu, a me non me ne frega niente. Hai capito? Te la porti via, non voglio neanche una lira, non voglio, te la porti via e basta, tutto lì. Che sto facendo pulizia, cosa è quello? Mi sembra essere stato chiaro. Pompo, ma se è roba vecchia usiamo il vostro, io voglio roba recente. Almeno di 2-3 anni fa, allora sì, si può fare qualcosa. Qualcosa la costruisco, ma la roba del Windows 98 non li vuole nulla. Cioè, capito. Io ho capito anche a te, detto, se vuoi altra roba, detto, c'è un sacco di altra roba, è in garage, se la vuoi, per il petto quello che è, fai quello che vuoi, te lo prendi e te lo porti via, a me non me ne sbatte niente di quello che fai tu, dei soldi che ti fai, a me non me ne sbatte, questo è un cazzo, basta che mi libri il garage, il discorso è quello. Vabbè, ascolta, un po' regalo la stai. Che cosa? Ho detto l'Apollo, la stai regalando. Sì, dove te, guarda, ti faccio, guarda, immediatamente, subito le... subito te la regalo, guarda, l'Apollo. A parte che non puoi pigliarlo né tu né io. E tu già lo sai. Siamo i tre. Sei grazie a Dio. Quindi, che cazzo Apollo ti regalo? Mi hai fatto una domanda di... Boh, non lo so io. Non ti posso regalare niente, siamo in tre, gli eredi, non uno. Quindi uno non capisce una fanculo, l'altra capisce, sì, per quello che vuole lì, e io, grazie a Dio, sono intelligente. E quindi, secondo te, se lo firma uno all'altro, sono fregato. Ma scusa, allora, con la domanda a Renzi, c'è scritto nel foglio che me l'ho dato, posso fare la domanda e poi trovare qualcuno che mi regali qualcosa. Io ho pensato a te che magari tu mi regalassi l'Apollo, con la domanda a Renzi. Sì, allora fai una cosa, perché non mi regali casa tua a un certo punto? Scusa, anche se la casa popolare te la sei fai. A parte te l'ho segnata, il comune. Scusi sono. Boh. Sei un disgraziato, sì, con la verità. Beh, a un certo punto non mi conviene più, allora, dai. Tienita, tu, vabbè, non c'è problema. Così mi risparmio i soldi del passaggio. I soldi dell'assicurazione, i soldi del bollo, della benzina, insomma. Minimo ci voglio, per farla uscire da lì, almeno 2.000 euro. No, 2.000 euro no. Ma 800 ce ne vogliono, però, La verità si dica. Va bene, non vi lascio tu sento, se mi ripeti tu, capite, il torno. Sì, anzi, te lo regalo io, la verità. Ti faccio un regalo, la verità, dal comune. Mi vedrai 1.200 euro, ti regalo 800 euro e poi ti fai il passaggio da rapporti, va bene. Però mi dai il culo per un mese. Ti va bene. Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Facciamo il contratto. E siamo a posto. Sì, ma a questo punto pure sei diventato. Non so che sei disgraziato, pure magore sei diventato, boh. Penso di quelle altre, già lo sai. Ti ricordi a quello famoso di tanti anni fa, cazzo, che ha avuto come eredità 15 appartamenti e non è manco visto, no? Perché è diventato croce, no? E a un certo punto devi capire. Direttamente cosa significa? Significa sì. Ogni cosa è un guadagno, che va quello. Quindi se tu vuoi guadagno dall'altra parte. E poi ma non ce la fai a farmi l'allaccio, sei troppo bacio a me. Non ti preoccupare, tu fregate, gli accela là, c'è tu, ci sono ritratte di quei tubi, non ti preoccupare. Cazzo, non ti preoccupare. Poi c'è la vasellina, c'è di tutto adesso. Se non ti piace il tubo piccolo, c'è il tubo grande, bisogna avere pazienza, bisogna avere Luca. Boh, se non me tu ci siamo di sponda, Vabbè, vengo, da fare fatto. Ma per quanto? Per un mese? Vabbè, per un mese vuol dire soffrirò. Ah, va bene, d'accordo, ok, da, siamo d'accordo, allora, ok. Ma se non fa ridere, mi, se no te la metti lui dopo. Mica è salgo, mi, non fa un ronfio, mi, sono testimoni, Natalino, tutti quanti, Luca. Mica è salgo, mi, io ci sto, non ne ho problemi. Ecco, te la fa mettere dietro, non c'è problema, vabbè, ok. Tutti i giorni, per un mese, e sono affari tuoi, già lo sai, Però se fa ridere, mi, se ridi, te la mette lui. No, sì, dai, io ci sto per un mese, va. Ma... Ora devi stare tu più di un mese a darlo a me. Hai capito? Sembra che è l'onfio. Ma no, io non uso il tubo, io uso la mia. Tu non puoi usare niente, non lo sai. Devi solamente subire e basta. La cosa è quella. Quindi... Allora, sulla prima Luca. Oh boh, io il tubo non ne uso. Basta il mio tubo. Sicuro. Da tre quarti. Cocco, male. Si può fare sempre il scaldabagno. Tu sono scappellato. Tutto questo pompino, vabbè. Ha chiesto con Marco, gira. Ti dà solo perché la fa un occhi. Per l'asta. Aia. Marco Luca, ho pure il bagno. Scala bagno, gliela dire che è in busso. Ho pure di farsi l'allaccio. La 38 e mezzo pollice. E senza pasta. Luca. Oh, Marcolino, ma non è che tu usci con Pompulio e ti fa pure te l'allaccio, no? Io e lui glielo faccio. Lui è la bambola del gruppo. Per quello che Marcolino mi sembrava effeminato. Noi ti ha fatto l'allaccio del pugno. No, effeminato chi la prende, chi la dà no. Eccitato Luca, non hai capito. Luca farebbe tutto per avere l'Apollo, il discorso è quello. Ma se ferma da secoli quella macchina, ormai non partirà più. Appunto per quello. Aspetta un secondo che sento bussare il muro, non ho capito il perché. Evidentemente qualche guasto, cazzo, si è dimenticato, cazzo, che io abito qua. Guarda, io sono sicuro che parte con un po' di benzina o accendino, se non ti basta. Sicuro. Guarda che la macchina è giù in garage. Io ho messo la batteria e grazie a Dio accende, quindi non c'è problema. Ah, grazie a Dio che accende, se Dio non c'era. Stanno tu dicendo che la macchina accende, è a posto. Come quadrati, lo so. E io, ne ho messa io, non ti preoccupare, fregate di quello. Ho messo la miscella. Non è vero. Io, ne ho messo 2,50 di miscella. Non è che vai tutti i quadrati, no? Io, grazie a Dio. Peccato quella macchina, veramente un peccato. Non lo so. Cazzo, c'è un casino perché sono troppi eredi. Ma poi non è che cazzo. Non lo sai. Ah, intesa toccando il muro. Sì. Prenditi guai, effetto. Sì, sì. A poco. E lui. È vero. Yes. Non lo sai. E lui, sono qua, dimmi, tutto. Sono qua. Mi escucci? Compagno Luca! Marco! Quindi allora poi ce la piglia con me qui. Non ho capito! Compagno la ghecca! In quanti siamo qua? Hola! Oppure una gecca? Non ti senti. Ok, era ora. Popù. Dimmi Luca, sono qua. Ma mi senti, buh, io ti sento strano, a tratti. Ti ascolto bene, io non ti preoccupare. Tu mi ascolti bene? È un po' flusciato, arrivi. E mi schiato. Vabbè, lo sai che non è che c'ho l'apparecchio come... C'ho quello come si deve io. Dimmi tutto. Noccioline. E non è che te me ne posso noccioline. Ma poni una gecca. Fini lì, Alu. Hello. Ciucchicciù. Non te ne vai, ah? Non te ne vai? No, non ci vado io. Io rimango qua. Perché questa frequenza è mia. Ti devo far squillare un telefono? Sì, fammi squillare il telefono. 23 40 81, se no 26 18 26. Tanto quando trovo Falcone domani mattina, mi dispiace, ma gli faccio un bel regalo. Gli do un bel portatile, a me lo parla e così avete finito di schiattare tutti quanti. Hello. Così imparate. Bello bene. Ma che sta? Pompu. Dimmi. Grazie. Va bene che mi ascolti, quando ti arrivo, guarda un po'. 1, 2, 3, 4. Senti, segnale di 7, 6 qua. Aspetta, faccio un altro passaggio, aspetta. Che radio stai usando? Che radio stai usando? Io no. Lui, dovrebbe essere l'otto torto. A quanto mi ricordo io. Guarda quanto arriva adesso, buon po'. 1, 2, 3, prova. Segnale 5. Ah, più basso. Dipende dove ti metti, già lo sai, no? Quindi il discorso è quello. Io ne ho dato tanti di quegli apparecchi, la verità, in giro. Quindi te lo sto dicendo. Luca, non è tutto quello che è. Secondo dove ti metti, a volte prende bene, a volte prende male. Il discorso è quello lì. Tu che radio stai usando, Antonè? Sta grande, quindi ascolto è in grande. Il discorso è quello. Il problema è lui, non sono io. Io ti ascolto fondo scala. Com'è il segnale mio? Guarda un po'. Fondo scala, sì. Ah, come godo. Hai visto bello bene, hai visto. Adesso ti faccio un bel regalo. Anzi, un bel regalo. Anzi, ti ho già dato il bel regalo. Il cavo, almeno non ti voglio avere in quelle condizioni, mamma mia, mi fai proprio, guarda, veramente paura. Quindi, appena arriva il cavo, te lo metti direttamente su, sono 54 metri di cavo, sono. Già ti basteranno, a voglia, basta, avanzano. Marco! Sia! Da te come arrivo, un po'? 1, 2, 3, 4. Sì, Santiago 4, certe volte 5. Tu sei a fondo scala qua. Vabbè, dai, niente. Io l'ho messa a potenza massima. Ce l'hai acceso sul 10? No. Comunque arriva meglio qui che lì, Lu, tu sei morto. Non ti caga nessuno, tu sei morto. E chi, io? 35. 50, 50. Ti faccio schiattare. Tu sei a fondo scala, Marco. Ah, come vai? Non ci hai capito, sì? Tutti i watt, Susanna, tutti. Ah, per quello è. Ok, meglio così. Comunque, Pompo, non sto usando quello che hai detto tu, è un'altra. Io ho detto così. E c'entra, scusa, Stavo usando quello. Quindi... Anche il mio cane sta usando una pallina, eppure si ripete a girarmi le palle ogni giorno, tutta la sera, è bene quello. Comunque arrivi bene, a me interessa che arrivi bene, peccato, se usi una cosa, poi se usi un'altra, ripete che arrivi, grazie a Dio. L'altra volta invece stavi arrivando basso, a me ti sei sistemato come si deve, sono contento. Vabbè. Io sono basso, di natura. Vabbè, comunque sia, se sei a casa tua o se sei a casa della tua fidanzata, come tu hai trovato il giorno, non è che mi non mi cambia tanto la verità, il punto è che ti sento, il discorso è quello, solo quello volevo chiederti e basta. L'importante è che tu arrivi a casa, dopodiché ti sentiamo, almeno. Adesso sono normale di Watt. Poco fa ti ha sentito la mia ragazza dicendo che mi volevi fare l'allaccio, si è incazzata. Ah vai, che non è... ma stai scherzando, io che non ti faccio mica l'allaccio, ma stai scherzando. Ah io, fini lì, Luca. Cazzo, boh, non si può manco scherzare. Anzi, a parte poi neanche inventare una cosa del genere, ma comunque sia, se te lo chiedo, che ti faccio l'allaccio, guarda. Buon per noi a un certo punto. Almeno siamo a posto. Doppio allaccio, doppio coraggio, diceva quello. Sodomita. Davvero. Davvero, davvero. Con i watt normali, come va? 1, 2, 3. Bene, bene. Prima erano un bel po' di più. Tutto a posto, sì, me lo vago, adesso che è chiarito. Ma fanculo a te, cazzo. Mi fai le battute di buh. Davvero. Luca è una scena, guarda, una Luca. Buh, è una cosa allucinante. Tommy, guarda. Guarda, trovi a Luca, mi raccomando, una promessa, gli tagli il pisello davanti a me, glielo annusi e glielo tagli, ok? Ci sei Luca, va bene? Bella mano, il cane è a posto. Accuditi che cotto. Ma come faccio senza? Ah, tavaggio, non mi interessa niente a me. Il cane mi ha detto così. Anzi, io che so io. Vedo? La pallina. La pallina, lo sai che la pallina è Luca, la pallina. Ecco, se Luca non ti presenta la pallina qua a casa, tu gli rimondi il pisello, gli rimondi, lo sai. Eh? Vabbè. Adesso non ti posso fare abbagliare il cane perché il cazzo non la abbaglia, però quando vieni qui Luca te lo faccio vedere così impari. Te lo vuoi subire. Mica quella polo è tutta trodiata a me. La lancia, ah, me la fate un da me. Ma pure la ghetta! Che è poca niente che ci lanciano oggi. Pupu! Fare la pernacchia. No, meglio mi ascolti, non più te l'ha fatta Marco la pernacchia, non io. Signore 7 sì adesso. Basso, Luca, sei arrivato a zero. 7 a me. Qui non sei gelosa. Non sei gelosa. Per me sei 7 insegna. Ascolta, ma Luca, adesso non per farmi gli affari tuoi. Comunque sei della tua fidanzata, giusto, sì o no? Eia, non fammi i fatti miei, sono la mia fidanzata, sì. Appunto per quello, quello ti volevo dire. Comunque sei segnale 7, ok. Visto? Ma segnale gonfio, ciò. Gonfio ce l'hai fra due mesi se sbagli, se sono affari tuoi. Arrivati ti facciamo da testimoni, io e... Già lo sai. Quindi siamo a posto. Se maschio è maschio, se femmina è femmina. No, ma ho detto, il mio segnale è gonfio, eh. No, è normale, non è gonfio ancora. Ci vuole 5 mesi, a meno che non hai sbagliato. Vai Luca. Sì, sono 12 mesi. Ehi, come il cavallo. Ma 12 mesi. Ehi, ti sbagli prima, non ti preoccupare, fregatene. Tutto il cielo io. Guarda, per come la penso io, tu fra 3 mesi... vedrai che l'hai messa incinta e poi vedremo un po' da se c'ho ragione io. Io non so come si fa a mettere incinta, come si fa? Bavardo. Con la forza della mente. È vero. Ma tu Bobo mi hai preso la pillola? No, io ho pigliato solamente in culo, l'ho presa, la verità. come quella barzelletta in Rambo, mi incinta da sedere. Quindi aspettati che tu da poco sarai papà, te lo dico io. E tu pompogno sarai zia? No, non mi è chiamata a me a farmi da zio o cosa del genere, quindi tocca a lui e a noi e a te, anche a te, da fare la testimonianza in quel caso. Quindi, perlomeno lo dopo tranquillo per il momento, fino a mesi, dopodiché poi c'è, lo sai, mi ha fare gli esami, eccetera, e ce n'è roba da fare. Luca, lo passavo? Luca? Mica c'era l'urgentesi già, lo sai già. Ma Luca è caduto a me, Luca del Monte. E infatti, purtroppo che gli conviene. Io lo so queste cose perché c'ho mi riporta, lo sai, no? Marco, quindi c'era l'urgentesi da fare. Quindi a un certo punto non è come pensa lui, no? Poi Antonio, io non ho capito un cavolo di cosa stai parlando. Sei in delirio, boh. Non sono in delirio. Ecco, c'è l'urgentesi, si chiama. Quando una ragazza rimane incinta, fanno i controlli, tutto lì. A un certo punto, se il feto va bene, è logico, se no... Assolutamente no. O mi sbaglio forse? Mica ti chiamo la neuro, mi. No, non puoi chiamarmi la neuro, mi dispiace per te. Ma mi sono informato. Cos'è questo? Sto studiando. Qui c'è la lucente, se si chiama. A un certo punto. Che la fanno? Ti faccio portare via con la camicia di forza, me. Magari, e ora? Ti fanno anche l'elettroshock, me. Sì, l'elettro pisello mi fanno fare. Il tondino. Il tondino, inteso, eh? Ti fanno anche il tondino. Sì, magari. Vabbè, che già fatto. Ha già fatto il tondino, e allora è abituato. Magari. Magari. Tutta è la seconda volta a me, Antonio, quando mi tolgono via le croste, o Marco. Sicuro. Ma cos'è, tondino di ferro o tondino di alluminio? Di ferro, e ciao Luca, è barrado. E allora, come è? Che mi ha mandato un messaggio che deve andare a Casablanca. Eia. Vabbè, ciao a tutti, dai, mi state distraendo, devo fare roba al computer, ciao. Ah, Marcolino, sta con noi, dai. No, c'è Pomponio che mi sta facendo il schifo. Vabbè, a parte gli scherzi, dai che devo fare roba, ciao a tutti, un bacione mi. E un bacione da Pomponio. Uno so parlato, che hai detto, grazie. Oh, Luca, figlio. Ma tu poi, quel famoso maialino, il tubo dell'aria, l'avevi poi recuperato? Sì, le vende Mariani. Sei zero però il segnale, non ti sento bene. Ho detto che le vende Mariani. Mariani chi? Quello delle motorette. Sì, Agricola Mariani, li ha giusto anche lui. Eia, va bene. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ciao. Mi sentite bene? Se vi dico quanti watt sono, mi arrocciano qua. Quanti watt sono, Antone? Di un numero. 5 watt sono, mi. Con lo zero finale, però. Vabbè, Luca Pippe è un paraculo, avrete, si fa solo avanti quando vuole lui. Ma quello avessi fatto che c'è qualcosa, boh. Inteso, è Luca Fli, ti ha detto paraculo. Lui pure lo sa. Come? Ma perché? Non ci parli con me, mica ti ha fatto qualcosa, boh, scusa, Si capita però, Luca Ghecca, Madonna, c'è quello là, è una cosa allucinante, Luca. Vabbè, non c'è problema. Pazienza, se mi saluti a me Luca, Flip. Pazienza, a un certo punto pacchetto, un altro che sembra quello sembra, va bene, un fruscio quello che sento, evidentemente deve essere figlio di Bisio Mussolini, senz'altro, Ma da solo stai parlando? Non ti capisco cosa stai dicendo. C'è uno che parla da solo, ho letto. Tu non lo senti, ma lo sento io. Sembra il figlio di Bisio Mussolini, ho letto, basta. Mi hai capito, Marco, sì? Via. Ok, meno male, sei arrivato. Ah, ci sono arrivato, vorresti dire che io sono tonto? Non è quello, perché tu non lo senti, ma lo sento io, siccome in pratica sarebbe il corvo, quindi, capito, lo sento solamente io, tu non lo senti. Eia, ma questo canale adesso facciamo dire i contributi dell'USL lì, dell'ASL, sanità mentale, canale della psichiatria. Sì, a un certo punto sì, guarda, perché non è possibile qua. Veramente alludevo a te. A me. Non è vero, Zano. A un certo punto. Non ho capito. Che si è sano, questo è da vedersi. Scommetti tu. Ma Zano, io anche adesso. Scommetti quello che vuoi. Vuoi uscire? Ma quest'ora è chiusa là. Capito? Dove là? Tu dai corda, qualsiasi cosa ti dicano dai corda. Finini da loro di gusti. Accuditi che cotto. Oh po, allora non siamo a berci una birra? Dove c'è qualche posto un ciclo aperto? Non ho capito, dimmi. A berci una birra a qualche parte. Lo sai che il ciclo aperto l'unico è Nicco, quindi. E chi è Nicco? In via Torino. No, oh, capito. Beh, ma tu esci, se passo. Certo che passo, certo che esco, certo che passo. Quando vuoi, però prendi anche come la. Bisogna fare come la tavolta. Come la tavolta. Quindi a un certo punto non mi puoi due volte. Allora, facciamo così. Vai a prendere direttamente a coso. Poi da Marco e poi andiamo direttamente a Nicco. E così siamo a posto, ti va bene? Ma che c'è anche la mia ragazza, mi raccomando, fate da bravi. Ci senti, guarda, mica me la mangio la tua ragazza, lo sai, non sono di quelli io. Lascia perdere, lo sai. Grazie a Dio. Non sono di quelli, dipende da te. Non gli piacciono le donne. Cosa vuoi fare? No, a vero lui, tanto gli piacciono. O poi tassi ti piaccio, tra le spalle. Se vuoi andare, andiamo. Se no, dipende da te, te lo sto dicendo. A me, se vuoi portare anche la tua ragazza, non mi cambia nessun problema. Qui? Non mi cambia nessun problema. Più che altro è una cosa diversa, ma usciamo e ci diventiamo, più che altro. Tutto lì. Tu già lo sai che una volta sono venuto a mezzanotte, da te. Preso per il culo da Antonio Grotte, cioè, se ti ricordi bene, e quindi io l'ho passata bene, ma lui l'ha passata male, il discorso è quello, e che lui l'ha fumato, io no. Attone. Magone, sa benissimo che è Magone Antonio. Attone. Quindi sta a te. Vediamo che esci non fare, lo guardi pure il condogliante, no, non c'è problema. Se Marco ne ha voglia adesso, andiamo in via Torino, ci vediamo qualcosa, quello che è, e poi rientriamo tranquillamente a casa, tutto lì. Può portarti chi vuoi, tua sorella, tuo cognato, quello che ti piace, a me non me ne frega niente. Sono cose tue, io sai, io rispetto le persone, il discorso è quello. Marcolino! Ehi, caricatevelo mi. Ehi, ma a me ci ha messo a mezzo Pompo, io a quest'ora non vado al Vindiolu, nei postriboli io non ci vado. Come mai? No, è tardi, c'ho da fare, poi sabato notte non ci vado nei circoli qua. Non mi piace, lo sai. C'è gente brutta che beve. Ah? c'è, ci sono io che bevo, non ti preoccupare, cazzo, mi bevo una mazzotti, quello che è, mi faccio un leasing, quello che è, ma che cazzo, mi, asco, Marco, già lo sai, già l'altra volta, quindi vieni e basta. Perché stai entrando a casa, ti bevi una cosa tu, una cosa io, poi una cosa la verità Luca, poi io la verità non la conosco, la fidanzata, il discorso è quello lì, tutto lì. Buon po', va, se vieni via Grazia d'Aletta, in via Grazia d'Aletta, in un circolo lì, ti pago da bere, adesso però, alle 9, alle 10 arrivo io lì. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto tu, cos'è? Ho detto, se vieni a un circolo lì in via Grazia d'Aletta, ti offro da bere. Per me va bene, non è che mi cambia la verità, non mi cambia niente a me. Se vuoi andare in via Grazia d'Aletta andiamo di lì. Basta che poi rientriamo a casa, il discorso è quello. Sia io sia Marco, il discorso è quello lì. Se tu vuoi andare lì, come sei abituato ad andare per dire metti una cosa, non c'è problema. Non mi cambia nulla, è la verità. Allora metteli, dai, io sono lì, alle 10 arrivo, 10 meno un quarto, dai. No, Antone, a parte gli scherzi, io ho da fare, non posso andarmene in giro di sera, dai. Ebbene. Oh, come vuoi tu, la verità come vuoi tu. Come vuoi tu, no, io non esco, a parte gli scherzi, Antone, stiamo scherzando, stiamo giocando, ma non esco a quest'ora, c'ho da fare al computer, dai. Qua ci tu a piedi in via Grazia d'Aletta, mi, da Carbonazzi a piedi in via Grazia d'Aletta. assolutamente non ci vado io a piedi, metto che veniva a pigliarmi lui, il discorso è quello. O non lo so, se lui vuole venire, bene, se no pazienza, non mi cambia niente la verità. Luca, cosa fare? Se vuole venire qua, in macchina, li prende, andiamo di là. Ma una cosa veloce e poi rientro loro a casa, il discorso è quello. Copiato, ciao ciao. Avete parlato in due, Marco, cosa hai detto? Ehi, beh, abbiamo scherzato ormai, dai, giocato, eccetera, io devo fare roba al computer, dai, non esco a quest'ora, ciao. Ciao Marco, ciao. Dimmi. Ma, e beh, uscire dovete o no? Non so niente alla verità, perché non mi ha detto niente ancora. Se vuoi uscire, bene, se no pazienza, no, non mi cambia nessun dire. La verità. Sono a posto io. Va bene, ciao a tutti, ciao ciao. E ciao Marco, ci sentiamo domani al limite, va? Buonanotte e buon tutto. Luca la Greca! Luca la Greca! E io! Ragazzi, vieni tu. Ragazzi, vedi. Andiamo a prendere la pompone, ci beviamo un paio di birra e poi la resta accompagniamo a casa, io. Sì, dimmi. Io ti sto aspettando, me. Cerca di basso pigliarlo, non fa cazzarmi, eh. E poi il pulito fa in compagnia. Non vero, non sei alcolizzato io. Mica se mi lascio alcolizzato, vai sci a fare abito la birra. Adesso sei alcolizzato, sai che non bello. Ma se ti varia. Io! Ma metti la televisione, sapete, non? Sì, tutti dietro la televisione stanotte. Dietro mettiti, nuda, beh. Oh, domani alle 9, allora, vi bene? Io lui, alle 9 non lo so. Alle 9 e mezza, sì. Sì, vabbè, siamo ancora in giro. Andate laggiù e dovete buttarle. Oh, prima proviamo il cavo, se è quello. Ma ho capito, vabbè, dai, vediamo. In caso già ti avviso. È strano, perché c'ha tre stazionarie. Ho tanto il mio rosmetro anche. Qualcosa, o il cavo, l'antenna, buh. Me l'ha detto, c'ha tre stazionarie, buh. Infatti gli ho detto, non è che te l'ha toccato qualcuno, magari, lì. No, non c'è, lì non sarà nessuno. No. Non c'è nessuno sopra di lui, c'è il tetto. Ehi, you! Vabbè, dai, Lu, io sto uscendo adesso, metto a caricare il portatile. Ciao, Lu. Ci sentiamo domani. In caso già ti chiamo, sperando che non fa freddo domani. A noi interessa che non piove, capito, Lu, così cerchiamo di risolvere lì. questa cosa. Ciao Marina, buon divertimento. E io? Vabbè, dai, ciao, ciao buon po'. Dimmi. Sì, ciao, io sto chiudendo, esco, ciao. Ok, ciao Luca, ci sentiamo a domani. Poi se, vabbè, se vuoi passare già, intanto sono a Nico, non c'è problema. Ah, da Nico sei domani? No, stasera, sto scendendo fra poco io, prendo il cavo e sto scendendo. Io sono a Nico, via Torino, passa lì e ci vediamo lì. A che ora chiude? Ehi, alle 4 del mattino. Ma dov'è via Torino, buh? Via 4 novembre, angolo via Torino. Dopo la GBC c'è un, di fronte al CGL c'è una via che hai capito? Quella via lì. Entri. Si chiama. Entri e si apposta, non ti preoccupare. Ah, ma l'ex lunghia nera? Esatto, sì. No, l'ex è sempre lunghia nera. Quindi già mi trovi, non ti preoccupare. Ci vediamo di dopo, là, ok? Io, va bene. Oh, Antone, ma tutte le sere lì stai andando? No, la verità non tutte le sere. Adesso ci vado. La verità perché ho buttato un bel po' di mondezza stasera, la verità. Più che altro a casa, non è che mi stia tutta la notte lì, no? La verità. Se vuoi venire, te lo sto dicendo Marco, 5 minuti ci abbiamo una cosa, poi ci andiamo a casa. Ma Marco, sono te lì, Sì, no, tanto io non devo venire. Mi sciopolate il lavoro qua, in questa camera, mi. Sto tutto cercando periferiche, smistando fili, eccetera. Vabbè, pensavo che venivi, lì, al circolo. Vedi una cosa, veloce, poi mi stavo andando direttamente a casa, perché non è che devo stare il cazzo in giro. Gli avevi visto l'altro giorno. Quindi voglio di nuovo rivivere la mia vita come facevo prima, il discorso è quello. È un freddo, Antonè, ma chi te lo fa fare uscire con questo freddo? Meglio uscire, guarda, che stare dentro casa, attaccato all'ambiente che ti trovi i parenti, capito? Il discorso è quello. E tu già lo sai più di me, quindi a un certo punto meglio niente. Voglio uscire per svagarmi e basta. Vabbè, ma bere non vuol dire svagarsi, no? Vabbè, è una cosa, se sto dicendo di bere un litro e mezzo di roba, no, che cazzo c'entra quello? Peccato distratti, hai capito? Anche se posso dire, mi faccio un giro di casolitti, come facevo prima, voglio fare come facevo prima, facevo il giro dei casonetti, per dire mi distraevo e cose del genere, mi divertivo a giocare, tutto lì. C'è un freddo in casa che non puoi immaginare, sto crepando, ci sono 14 gradi solo, ma un freddo, mi sta colando il naso. La stufa è in camera di mamma, dopo vado lì mi. Anzi, mi pare ci vado adesso. Dai, Antonetti, saluto tutti. Ciao Luca Lemonte, Luca Flipper, tutti gli ascoltoni, tanti saluti alla famiglia e un bacio ai bimbi. Sì, a te tanto, saluto a tutti, allora, non c'è problema. Adesso prendomi, vado, bevo una cosa, piano piano, a piedi, dopodiché vado a me ne stare con un volume a piedi, non mi interessa un accidente. Quindi c'è nessun problema. Più meno. Ah, vero, tu sto dicendo. Adesso prendomene, ma sono tranquillo. Mi distrago un pochettino, ma sono tranquillo. Ehi, bella bozza, no. Ma stare in casa, no, non esiste. Se qualcuno vuole venire a farmi compagnia, viene, non c'è problema. Abbiamo una birra, una certa cosa, quelle non mi sbatte proprio niente, almeno passo un'ora più che altro, tranquillo, non me la fotti nulla a me. Un bel cinaro l'avrei bevuto adesso, con l'acqua. Vabbè, io sto andando lì, poi chi vuole venire venga, se no se la piglia in culo. Ma il portatile c'è, Antonè? Eh? Il portatile stai usando adesso? Ti sento male. Ho detto, se stai usando il portatile adesso. No, sono le basi, sto usando. Ma come mai arrivi oscillante qua? Ti sento male un bel. E adesso? Adesso va leggermente meglio. Dimmi. E adesso meglio ancora? Adesso meglio ancora. Ah, perché ho dato un giro di ruota. Ok, dai, sto uscendo, sono andando a farmi in giro. Me lo sveglio un pochettino. Vado a bere una cosa come si deve. Scendo a piedi, salgo a piedi. Sentiamo domani al limite, là, non c'è problema. Sì, ya, babu, dai, ciao. Ehi, ciao. Ciao, ancora un bacio. Io ti trattengo la radio, ancora, così non vai al circolo. Accidenti. Mi accompagna al limite, a piedi. Così me lo... Non prendo il tambo di fronte. No. Davvero, tranquillo, sono a posto, non ti preoccupare. La stufa l'avete accesa voi in casa? No, stufa no, la verità non accesa la stufa. C'è un cane che mi fa la stufa, la verità, tutte le notti. E a me è attaccata a me. Dormi che non mi molla un secondo, non mi molla, la verità. Si mette a fianco, si mette la mattina alle 5 viene, mi mette la testa sopra il muso mio, non riesco neanche a respirare, non so l'altro, figurati tu. Chi tiene a padrone, figurati. Hai capito? Ehi, ho detto, ti vuole bene. Certo mi vuole bene, anzi ci pensa a me, non solo l'altro. Ci tiene parecchio, la verità. Ma è meglio un cristiano. Ehi, meglio dei cristiani di sicuro. Sì, quello sì. È sempre attaccato vicino a me. Quando sono qua... Lui c'è il bacchino, piglia, mi controlla, poi entra la Simona, vabbè che piscia, vabbè già lo sai, no, quindi già lo sai anche tu. Eia, e non sei andato ancora però. E perché sono appresso a te, quindi adesso ci vado, mi faccio una bella passeggiata, e mi fa bene, ti distrae, hai capito, mi bevo una cosa, poi lo faccio come prima, salgo su, e poi se ne saluto a casa e sono tranquillo. Va bene, buona passeggiata, dai. Bevi poco, mi? Me ne bevo una, anzi mi porti, portatela appresso, tanto per farti compagnia, così almeno senti più tranquillo, ti va bene? Eia, e mentre bevi voglio sentire glu glu glu, così so che ne bevi solo una. Tranquillo, c'è anche lì con i portatili, quindi siamo in due, non sbaglio, già lo sai. No, vabbè, sto chiudendo. Abbiamo cazziato. Dai, sto chiudendo, devo fare un po' di roba al computer. Ok? Ciao a tutti, ciao. Ciao Antonio, buona passeggiata. Non pigliare freddo, mi copriti bene. Ehi, d'accordo, non ti preoccupare. Vado più che altro per passeggiare, perché è meglio che passeggi un pochettino. E mi fa anche bene. Già ti chiamo la cosa, baracchino, ti chiamo il figlio portatile, così ti chiamo, va. Che ci sei bene, sono paziente. Nessuno. Che nessuno. Nessuno di Napoli qua. Che nessuno di Napoli. Sì. Non ti porto, è stata casa tua. Lico, perché la signora ha paura, corvo, hai paura, hai già schiato, corvo, ti sei o non ti sei? Ti hanno il campanello, sì, faccio nuovo, ricordo il campanello, finché non apri la porta. Siamo lì. sta arrivando tra poco. Tra poco sto lì all'angolo di via di Castello. Oh. Come mai non rispondi? Ti fa male? Rispondi. Come Vergone, rispondi. Come vergone. Rispondi. E beh, già tornato, sì. E beh, sì, adesso sì. Sono qua a casa. Sì, hai fatto presto. Credo che tornassi alle 3:30, 4. Qua sei vato. Sono salito e sceso. Sono qua. Ehi, io stavo diventando scemo col computer, ho visto foto vecchie del 2004, anche prima. Mi sta zuffando con CD vecchie e non sa più cosa c'è dentro, nemmeno. Figurati tu. Vecchi programmi, un bel programmi vecchi. Che però avevo già installato su quel computer. Insomma, tutto bello, bello. Meglio così, non c'è problema. E io, vabbè, continuo, dai, ho sentito la voce tua, ho detto, ma lui è... Non ero sicuro che fossi tu. Già tornato a casa, sì, che cavolo. Non mi sto guardando nemmeno la TV per guardarmi questi vecchi CD, DVD. A fatto, insomma, cuscito, ma è tutto. Comunque sia, sono andato alla... dove c'è la fermata del tram. Dopodiché sono rientrato indietro. Il discorso è quello. Ah, non sei nemmeno uscito. E come mai? Ma perché sciopero di tram c'era? No, l'ultimo tram era quello. Ah, e quindi hai rinunciato, dai. Hai fatto bene, hai fatto bene. Non andare in questi posti di perdizione. Non è quello il problema, il discorso è non è quello lì. Grazie a Dio. A parte per ciò che dici tu, non è che senti molto la verità. Perché l'apparato l'ho dato io a Nico, quindi l'ho dato solamente per divertirsi e basta, non per altro. Ma l'altro discorso, quando ti incomincio a dire, oh, biagone, biagone, biagone, mamma mia, cazzo, ti si fa due coglioni così, mica. Eia, va bene, dai, io ti saluto e continuo a fare quelle cose lì, dai. Vediamo se trovo qualcosa di utile. D'accordo, io sono con l'ascolto, non c'è problema, non ti preoccupare. Sono qua l'ascolto. Ho mangiato, ho fatto una bella cena, e grazie a Dio. Eia, tanto io per oggi non rientro, dai. Spengo tutto e dopo me ne vado a letto anche, ok? Ciao. D'accordo, ciao. A domani. Buon tutto, buon quiviti, buon tutto, ciao. Ciao. Ciucciu. Hola. 1, 3, 4, 5, 6, prova. C'è nessuno. Hola, ciucciu. Ciucciu. Hola. C'è nessuno. Hola. 1, 3, 4, 5, 6, prova. Hola. Zitto, finocchio. Avanti, chi è? E chi vuoi che sia? Sono sempre io, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, tu stai chiamando disperatamente, ma non c'è nessuno a quest'ora. Sono tutti a dormire, sono tutti anziani ormai. Tutti vuoti sono, mamma mia. Eia. Sì, sono già ne ho pochi dischetti, con roba dentro, con imbrogli e cose, password fregate, già ne ho poche di roba. E dopo gli do un'occhiata, cioè ci metterò giorni a dare un'occhiata, ci mette un bel di tempo, mi perde un bel di tempo a dare un'occhiata a tutta quella roba lì. E vabbè, dai, se non voglia bene, se no rimangono lì nei secoli dei secoli. Diceva quello, amen. amen. Ah, mi affreddo che c'è, mamma mia, mi stava colando il naso, proprio la goccia di acqua dal naso mi è scesa. Invece sono tranquillo, per la bella sono tranquillo, grazie a Dio. Ma ormai sono tranquillo, non c'è amen o obit plumis, diceva quello. Aspetta, come diceva? Già lo sai, quello del il prete. Ora pro nobis. Ora pro nobis. A parte quello che non c'è proprio niente, ma comunque sia. Quello dei santi, diceva quello. E lo sai cosa vuol dire ora pro nobis? Sì, io lo so. Cosa vuol dire? Ma hai detto che lo sai o non lo sai? Santi Ovidio, ora pro nobis. San Pomponio, ora pro nobis. E poi il resto, già lo sai. Sì, ma cosa vuol dire ora pro nobis? Santo vuol dire, santo. No, è latino, vuol dire prega per noi. No, prega per lui, non prega per noi. Il discorso è quello. No, prega per noi. È diretto a Gesù, prega per noi peccatori, capito? Cos'è questo odore? Di carne, di coso? Cosa sta cucinando? Gesù! Che sta cucinando, che sta mettendo fuoco la casa tua madre. Io già facevo la fare stanotte. No, è odore di carne. Secondo me sta cucinando il gatto. A bistecche se lo sta facendo. Ora pro nobis. Piglia di nell'occi. Per dire di peggio, mi tipo, le a dire in cu. Ah, ecco, io lo so cosa vuol dire, ora per l'obbis, non ti preoccupare. E ne ho fatto tante di quelle cose. Madonna. Ah, sei 22, mi. Se vuoi venire con me, fate un giro. Ma quando? Il 22 di questo mese. E cosa succede il 22 di questo mese? E tu vieni con me, fregatene. A sorpresa, che ne so, magari stai andando in un locale gay, cosa ne so io? Sicuro, già lo sai che la guarda, non ci fanno in un locale gay, già lo sai. Ma di che sei davvero strano lì? Un locale omosessuale. Sì, di preti, sì. Peggio, quelli non sono omosessuali, sono pedopornografici. È molto più grave. Sì. I preti te li raccomando, mi, se vai come chierichetto dai preti ti devi mettere le mutande di ferro. Dicono così infatti, Vabbè, non voglio dire niente, là. Già lo sai anche tu. Allora, domanda, il microfono ce l'hai in posizione 1 o in posizione 2? Guarda dietro. 1. Prova la 2. 2. 1, 2, 3. Molto più forte, molto più forte. Direi assordante. Tu dici? Vabbè, allora lascio così. Prima era più cupa, era cupa. Così è, mi pare che la posizione 2 è quella buona, bisogna sempre lasciarlo anche in AM, soprattutto in AM. Adesso sei più capibile, prima sembravi cupo. Vabbè, non c'è comunque nessun problema, tra poco si cambia tutto, si cambia apparato, si cambia tutto, tutto si deve cambiare. Questo ce lo butto nella mondezza, non interessa niente, lo do a prete, che è meglio. Almeno quando entra lui fa la messa e fa ora probis. Lo compro dopo l'apparato, fra poco. 1200 euro ne vado a fare fra due giorni, quindi non lo so se conviene questo o l'altro. Ma tanto non fai nulla, non vai in 45 metri, non vai in altre bande. Per usarlo qui tanto vale un portatile. Andiamo ai 45 metri, dove vuoi andiamo? Dimmi tu dove dobbiamo andare, andiamo subito, immediatamente. 45 metri, 20, 25, quello che è. Costiamo le antenne, piano piano, non è che sia che è così facile costruire l'antenna, la vetta, eh? Comunque sia. Tanto ormai è tutto un giro, di costruire l'antenna con pochi soldi, lo sai, ma vabbè, lascia perdere, se la piglia in culo, a un certo punto cosa me ne faccio in 4-5, non c'è neanche un cane, cosa me ne faccio, non faccio niente. Vabbè. Vabbè, lascia vedere cosa c'è in cucina. Beh, Antonio, c'è un bel freddo comunque qua, io chiudo definitivamente, proprio spengo e vado nella camera dove c'è la stufa, perché sto ballando dal freddo. Cosa c'hai cena? Dimmi di buono, vengo anch'io. Non pervenuto, non lo so. Vabbè, vado, vuoi tu, dillo, non c'è problema. Chiediamo assieme, anzi, sai cosa facciamo? Ci vediamo tutti e due assieme, domani siamo a posto. Ci sei sceso? No, aspetta, che stavo tossendo, dimmi. Dì, un giorno facciamo. Antonio, chiudo del tutto che ho freddo qua, ciao. Ci sentiamo domani. Ascolta, martedì, mercoledì. Se non c'è nulla a fare, andiamo in pizzeria, ti va bene? Ma non lo so se avrò da fare. Antonio, già ne riparliamo, ne riparliamo in settimana. Dai, fammi chiudere che vi è freddo. Ciao, buonanotte. D'accordo, che okay, come vuoi tu. Vabbè, ti chiamo comunque prima, va? Al limite, se sei d'accordo, ci vediamo in pizzeria. Lo sai. Problemi non ce ne stanno. Se ritiro, l'ho messa fatta. Well,